Buona Pasquetta! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Danna per Damascus Destro, la fascia, 17 gol in campionato e la Juventus è in vantaggio. Attacca la Roma, Pjanic cerca Iturbe, pressato Iturbe da due avversari, va in percussione, scarica su Florenz, posizione grossa, la mette in mezzo, Pjanic, Roma in vantaggio. Felipe Anderson, ecco che parte, Felipe Anderson adesso sul lato corto, il cross basso, Mauri gira, Klose, e la Lazio avanti con Miro Klose al 31esimo minuto, il gol numero 9 in campionato per l'attaccante tedesco. Gomez dopo la sponda di Salah, gli dà un grande pallone, occhio a Salah che accelera, entra in area di rigore, Salah! Con la punta Menes, si lancia da solo, va Menes verso Sorrentino, Menes a testa alta, Menes! Ha impostato la modalità fenomeno, Jeremy, Fenomenes, 2-1, Milan di nuovo in vantaggio. Guarin a spazio, viene invitato al tiro, Guarin, deviazione! Il pallone in porta, l'Inter in vantaggio, decisiva, la deviazione sul destro di Freddy Guarin. Attenzione allo scatto di Jankovic, in mezzo c'è Toni, Jankovic controlla, chiama palla Toni, Jankovic lo va a servire e poi la conclusione di Toni ed è un grande gol al 17esimo minuto, 3-0, doppietta di un fantastico Luca Toni. Succi di prima brienza per Succi, Succi e c'è il gol del pareggio del Cesena, incredibile rimonta della squadra di Di Carlo, tre pari. Tocco per lui, Pagliarella col destro, va in porta, rete! Sotto la traversa, Torino in vantaggio a Bergamo, sotto la curva i tifosi Granata. Altro che grigliate, buona Pasquetta a tutti, noi siamo qui in diretta e vi aspettiamo, tutti convocati anche oggi, mai come oggi, 800 24 00 24, e anche a Pasquetta numero verde. Giorgio Duca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione, tutti al lavoro. Per commentare un sabato di Pasqua che ha disegnato una classifica pressoché definitiva, vi leggo le prime posizioni: Juventus 70, Roma 56 che ha ripreso il passo, Lazio 55, e sarebbe bello se insomma venisse deciso quel secondo posto in un derby. A me qualche brivido viene, però sarebbe sportivamente, per altri motivi, ma sarebbe sportivamente molto bello. La Fiorentina in grandi condizioni, ma 49 punti, 5 dalla Lazio che non si ferma più, sono 6 dalla Lazio che non si ferma più, sono davvero troppi. Sampdoria ne ha 48, Napoli tagliato fuori da ogni gioco per quanto riguarda secondo e terzo posto con la sconfitta, 47, e poi da lì si va per quelle a caccia di qualche sogno, che possono essere il Torino 42, il Milan che si è dipinto di orgoglio almeno a Palermo, Genoa 33 insieme a 38 insieme alla penosa Inter di cui parleremo. Al lavoro a Pasquetta anche per Luigi Pardo, che non è a fare la grigliata. Ciao. È in redazione a preparare Tiki Taka. Sì, ma non sono d'accordissimo sulla, cioè non la vedo così tutto finito, No, non la vedi definitiva. No, non ma la vedo. Dei tratti precisi però, No, i tratti precisi ci sono, è stata soprattutto la vittoria della Roma e quella della Lazio che hanno, diciamo, allungato la distanza, sì, tra seconde, terze e le altre, no? E quindi da questo punto di vista sicuramente è stata una giornata che ha dilatato le distanze. Però credo che delle cose possano ancora succedere. Sono molto curioso di vedere Fiorentina. Tipo la Fiorentina, che mi sembra stia molto bene, e anche se chiaramente l'impegno europeo e l'impegno in Coppa Italia potrebbe condizionarla in qualche modo. E il Milan sono curioso di vedere, c'è un Milan-Samp, vediamo che succede. Insomma, il Milan sa che se vince contro la Samp può riavvicinare il discorso Europa League. Sì. E poi sì, poi c'è chiaramente il duello Roma-Lazio, che mi sembra a questo punto, insomma, lo scudetto. No, sarebbe lo carino scudetto se arrivassero, sarebbe sportivamente sì, carino che arrivassero al derby, che è alla penultima giornata, correggimi se sbaglio, in queste sì, posizioni, sì. Quindi è molto difficile. La Lazio ha un calendario migliore adesso, la Roma ha un calendario migliore alla fine, anche se poi bisognerà vedere per esempio l'ultima giornata, che c'è Napoli-Lazio, che Napoli ci sarà, no? Che motivazioni sì. avrà. Partita che arriverà 4 giorni dopo la finale di Europa League, che speriamo veda una o più squadre italiane impegnate. Quindi no, io penso che sia stata una giornata abbastanza abbastanza precisa, come verdetti, anche se poi secondo me ci sono delle discussioni da fare, perché per esempio la vittoria della Roma è stata soprattutto la vittoria dell'orgoglio di una squadra nel secondo tempo anche provinciale, ma nel senso positivo ovviamente del termine, che ha ritrovato se stessa. Il Napoli non ha giocato male, a differenza avrebbe probabilmente meritato il pari, però la Roma sembra aver riannodato i fili con qualche discorso. Non prende gol, sempre da lì. De Santis bene, Manolas bene, Astori bene, comunque un lampo di Pjanic che era da un po' che non si vedeva, una capacità di soffrire nel finale comunque che va sottolineata, poi è una partita secondo me... nella quale il Napoli ha mille rimpianti, nel senso che appunto poteva finire anche in maniera diversa, su questo non ho dubbi. A me non è piaciuta la formazione iniziale. Venerdì ne abbiamo parlato, abbiamo detto un Napoli che deve vincere per forza, un Napoli che ha un solo risultato a disposizione, un Napoli che tiene fuori due sue stelle come Hamsik e Gabbiadini, tiene fuori Koulibaly, insomma una formazione così come altre volte che Benitez secondo me non ha disegnato forse nel migliore dei modi, no Pier? Sì, direi di sì, è una formazione abbastanza discutibile, sì. Le scelte di Benitez soprattutto in campionato ultimamente sono abbastanza discutibili, insomma, anche se chiaramente poi non è facile da qui. Io domando perché, cioè, c'è bisogno di preservare, va bene, c'è la Coppa Italia. Quello che ti dico è che dove eventualmente, se perderà un posto in Champions League, perché ancora mancano 9 giornate, secondo me sarà stato nelle 3 sconfitte esterne contro Palermo, Torino e Verona e nei 2 pareggi con Inter e Atalanta. Nel senso che la sconfitta all'Olimpico contro la Roma, al di là del fatto che ci può stare perché è uno scontro diretto, ma poi è arrivata, come detto, più per episodi e per la grande capacità di sofferenza di ricompattarsi che la Roma ha avuto, che per limiti tecnici. Anzi, in certi momenti nel primo tempo mi sembrava comunque migliore il Napoli, ha costruito secondo me di più rispetto alla Roma, però alla fine il risultato ha sempre un senso, no? E quindi come tale deve essere accettato. Quello che io non ho capito è stato l'atteggiamento con il quale la squadra è scesa in campo in alcune altre partite, contro l'Atalanta in casa, è stato veramente imperdonabile, contro il Torino, contro il Verona e contro il Palermo fuori casa. Queste 4 partite secondo me sono la pietra dello scandalo del Napoli. Il Napoli che si avvicina, tra poco ne parliamo anche con un ospite, si avvicina a una stagione, se dovesse andare così, vabbè, in campionato totalmente deludente. Aspettiamo ci sono due grandi coppe. Per la Fiorentina, stessa condizione, ma la Fiorentina mi pare messa meglio. La Fiorentina è messa meglio e la Fiorentina non è la partita per vincere lo scudetto, come invece in qualche modo il Napoli, per stessa definizione di allenatore presidente. Poi è vero che molte cose, un po' come in campagna elettorale, si dicono prima e poi bisogna vedere ovviamente alla prova dei fatti se si verificano, quindi è chiaro che nessuno parte per retrocedere, no? Nessuno comincia la stagione dicendo il nostro obiettivo è retrocedere, è chiaro che bisogna avere grandi obiettivi, però è evidente che rispetto che agli Napoli, obiettivi Napoli è molto di distanza al di sotto. La Fiorentina per me deve essere divisa in due metà. La stagione della Fiorentina, la prima metà è stata così, in linea con gli ultimi anni, da quando c'è stata questa rivoluzione di gennaio, la squadra ha rinunciato a Quadrado, ma alla fine è un'altra squadra. Ha trovato molte altre cose. Non mi nascondo, nella prima parte della stagione mi avevano chiesto che cosa pensavo della Fiorentina, pensavo che arrivasse sesta o settima, te lo dico oggi, l'abbiamo detto anche questo microfono, oggi è un'altra squadra, l'abbiamo detto anche qui, cioè dicevamo, ti ricordi, il progetto Fiorentina sembra finito, sembra un progetto che mostra la corda, sembra che ci sono stati mille infortuni, mille problemi, però si aveva l'idea, la sensazione di un qualcosa che era fisiologicamente finito, magari anche la permanenza di Montella su quella panchina. Invece il mercato di gennaio ha incredibilmente rivoluzionato tutto. A proposito di Fiorentina, domani va a caccia con la Juventus, contro la Juventus di una finale di Coppa Italia tutt'altro che improbabile. Si parte dall'1-2 di Torino, ha parlato oggi Allegri, visto che è voce freschissima, ve la facciamo sentire subito. Di ribaltare questo risultato che è stato negativo all'andata non sarà semplice, i favoriti sono loro in questo momento, hanno il risultato dalla sua, sono in un ottimo momento, stanno giocando un buon calcio, stanno facendo ottimi risultati. Marchisio sta bene, è rientrato in gruppo, però ha sempre lavorato a parte, poi visto le partite che ha giocato dall'inizio della stagione ad ora, credo che stare 4-5 giorni fuori dalla squadra le abbia fatto solo che bene, e quindi sarà a disposizione, oggi valuterò se farlo giocare o meno. Ecco, questo era Allegri che ha parlato poco fa per questo Fiorentina-Juventus domani. Sono molto curioso di vedere quale approccio la Juventus sceglierà per questa partita, perché deve se vuole passare il turno deve andare a Firenze e massacrarsi, cioè deve giocare una grande partita, Pier. Sì, io credo che proverà a farlo. Io penso che la Juve arrivi a questa partita nelle condizioni migliori dal punto di vista delle motivazioni, nel senso che è già pienamente avanti con il campionato e con la Champions League, per cui la Coppa Italia diventa un divertimento. E è chiaro che il risultato dell'andata è un brutto risultato, forse lì c'era stato col senno di poi un eccesso di turnover da parte di Allegri, sì. Mi sembra che la formazione che potrebbe scendere in campo domani sarà di primissimo rispetto, insomma, perché Tevez sta da Dio, Morata ha potuto riposare per buona parte della partita dell'altro giorno, sì. Marchisio può recuperare, insomma, mi sembra che al netto ovviamente dell'assenza di Pogba, di Pirlo, che in qualche modo pesano, però sia una squadra, anche Chiellini ha riposato, c'è in porta la rotazione Buffon, Storari, ma Storari mi sembra che dia garanzie, e quindi insomma io penso che proveranno a giocarsela. La verità è che sta molto bene anche la Fiorentina, quindi una Fiorentina così tonica, così motivata, che perde in casa male male, perché qui non basta chiaramente 1-0 come l'anno scorso alla Juve, ma dovrebbe vincere dal 2-0 in su, è difficilmente pronosticabile. Però una grande partita, sinceramente non vedo l'ora di vederla, perché sì, veramente mi sembra. Ma poi la Juventus adesso può usare il campionato per allenarsi, questo lo sappiamo. Appunto. Cioè Max da Udine, qui non piace il turno pasquale, sabato pomeriggio non funziona, tanto vale giocare in serale anche. Ma la domenica ieri. Scusate, ma la Spagna, che è un paese più cattolico di noi, diciamo un paese altrettanto cattolico, poi in realtà sui diritti per esempio delle coppie omosessuali sono arrivati prima, ma insomma voglio dire è comunque un paese di tradizione cattolica, gioca ieri ha giocato regolare, ieri sera ho visto Celta Barça, insomma mi sembra, in Francia giocano, io francamente sono d'accordo con lui, scusa mi sono lasciato trasportare, prego. Io anche ieri abbiamo visto 5 gol di Cristiano Ronaldo, esagerato, ma adesso c'è Ronaldo quell'altro che lo vuole portare insieme a Messi al Fort Lauderdale, ha detto li porto qui tutti e due, vabbè. Comunque ieri il Real ha vinto 9-1 col Granada, in Spagna capita di vedere anche queste partite, tu hai visto Celta Vigo-Barcellona 1-0, risicato, molto risicato, c'è stato un grande Marsiglia-Paris Saint-Germain, vinto dal Paris Saint-Germain in trasferta 3-2 con Ibrahimovic e compagnia, che si sono riportati in testa alla classifica, atmosfera pazzesca nello stadio di Marsiglia, ma anche intemperanze, anche quelle segnaliamo, poi di altre intemperanze parliamo naturalmente anche con voi, 800 24 00 24, violenza verbale vista nello stadio di Roma sabato. Anche lì prepartita difficile con sassi e palline da golf contro il pullman del Paris Saint Germain, mi viene voglia di dire tutto il mondo del paese ma non lo dico. In Inghilterra il Chelsea ha battuto 2-1 lo Stoke, l'Arsenal ha seppellito il Liverpool 4-1, Balotelli non è andato, ha detto ho preso un colpetto al ginocchio, non vengo. Rogers ha detto è lui che non è voluto venire, È un po' come il caso Puntari nel Milan, insomma. Diciamo che non ho più voglia. Volevo farti sentire, Pierluigi, prima del traffico, poi lo commentiamo, un commento di Boban, voglio sapere come la pensi. Tutti voi che avete, non so qual è il complesso di parlare dei vostri valori, cioè italiani. Allora, nessun giocatore al mondo sa soffrire come giocatore italiano. Io ho imparato tutto dalla professionalità dei giocatori italiani. Quindi non è grave, cioè il calcio italiano ha risultati maggiori, ha ottenuto quando aveva 3 stranieri di grande livello più 8 italiani. C'è sgretolamento del Milan, iniziando quando? Da quando non c'è più Zoccolo Duro. cioè troppi esempi. Invece che razzismo, che fascismo, che problemi avete? Cioè, io sono mai capito, cioè, questo. Aspetta, per non essere, cioè, mal interpretato, cioè, ovvio, sono straniero, dicendo... quindi per me è più facile, certo, dirlo. Figurati tu. Da credo più valore. No, è quello. È giusto. No, tu parli di un bisogna complesso. Dare valore ai propri valori, perché è un valore. Queste le parole di Boban a Sky, come la pensi? Beh, innanzitutto Boban non è mai banale, no. Questo è il punto di partenza. Se lo dice lui, io ci credo, cioè, e tra l'altro, insomma, fra le caratteristiche del calcio italiano c'è questa professionalità. Il nostro è un calcio, diciamo, nella storia più che di fantasisti, è un calcio di grande professionalità, no? Una volta si diceva difesa e contropiede, catenaccio e contropiede, è un calcio che spesso si esalta nella fatica, nella sofferenza, sì. Stanotte ho fatto le 3 di notte nel rivedere sulla 7 il film sul mondiale del 2006 e lì l'abbiamo vinta proprio di tigna, di forza, di grinta, di garra, direbbero gli argentini, quindi mi fa anche di capacità di sopportare le pressioni, eh? Appunto, sì, di forza a 360 gradi, mentale, fisica, e quindi insomma che lo dica Boban mi fa particolarmente piacere e credo che sia vero. Non penso che si possa tornare al punto di partenza, nel senso che pur volendo i tre stranieri non puoi tornare ai tre stranieri. No, può essere semplicemente una scelta societaria che tornare a investire seriamente sul settore giovanile. Io credo che sia una cosa sana, sì. Perché il talento comunque in Italia ci sarà sempre, gli allenatori e la cultura del calcio di un certo livello ci sarà sempre, per cui insomma se crescono da noi, ma poi tu sei la pensi come me, insomma, noi sai, sì, che sì. Siamo contro questa visione pan pessimistica di tutto quello che succede, cioè tendiamo a essere ottimisti per natura, a sperare sempre che le cose vadano meglio e a non vedere tutto così catastrofico attorno al calcio italiano. Da questo punto di vista mi ha fatto piacere sentirlo dire. Anzi, sono molto curioso di vedere come va a finire la primavera delle coppe per le italiane, per la verità. 800 24 00 24, abbiamo il traffico, poi c'è già Boris Sollazzo in linea. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Convocati. Io mi aspetto che veramente si possano unire, il calcio è un gioco, bisogna vivere, non bisogna morire per uno sport. Quindi questo è il mio messaggio che ho mandato dall'inizio e continuo a mandare ancora oggi. Sembra di aver fatto nulla di eccezionale, mi sembra proprio doveroso. Qui c'è un problema morale e non solo morale. Quello che è successo a Ciro è successo vicino allo Stadio Olimpico, ero venuto per vedere una partita allo Stadio Olimpico, la settimana di Roma-Napoli, anche la settimana della Pasqua, della Santa Pasqua, per cui c'è la presentazione del libro, c'è un fine nobile, mi sembra di aver fatto il minimo del mio ruolo. Nel nome di Ciro, insomma, cerchi vendette o faccia violenza? Assolutamente, non ho mai chiesto questo e continuo a mandare questo messaggio. Quindi il calcio è vita. Dobbiamo tornare, andare su quel tema perché la cronaca ce l'impone. Boris Sollazzo oggi su Extra Napoli ha scritto un articolo violentissimo, pieno di passione, perché la violenza violenza pura era quella scritta sugli striscioni che abbiamo visto all'Olimpico. Ciao Boris. Ciao. Più che violento, ho il cuore che sanguina. Adesso sembrerà retorico, ma forse non c'è niente di peggio di quello che ho visto per uno che è nato a Roma ed è così legato a Napoli, insomma. Il mio cuore batte per due città e una viene secondo me ferita costantemente, l'altra si comporta con non degnamente rispetto al suo nome, però poi non voglio nemmeno cominciare a puntare il dito su qualcuno. Noi abbiamo un grosso problema come calcio, come sport, che è l'essere ostaggio costantemente di personaggi che di questo sport non amano nulla, che sono questi tifosi, questi ultras, che siano 100, 200, 1000, 2000, e ci metto anche quelli del Napoli che hanno messo lo striscione all'andata, forse sì. Vagamente più comprensibile, ma comunque stupido, idiota, indecente. A me viene solo in mente, appunto, io nell'articolo propongo che il Napoli smetta di giocare il campionato, ma mi viene anche in mente che Napoli e Roma, finché non sapranno risolvere questa situazione, non devono giocare Napoli-Roma e gli devono essere tolti ciascuno 3 punti. Cioè bisogna cominciare ad attaccare questo problema come è necessario attaccarlo, cioè come una situazione di emergenza civile gravissima. Quindi una sorta di responsabilità oggettiva nei confronti delle squadre che non sono in grado, dei club che non sono in grado di organizzare correttamente l'evento sportivo. Bisogna sbugiardarli, nel senso che questi chiaramente non hanno nessun interesse verso le squadre, ma forse è necessario da parte di tutti quelli che non sono rappresentati da queste persone che ci sia una reazione. Non mi basta dire io non rappresentato da queste 1000-2000 persone, scusate l'esempio troppo estremo, però forse altrimenti non ci capiamo. E non credo che a noi sia bastato al processo di Norimberga sentire erano solo ordini oppure non sapevamo. Uh-huh. Quando succede qualcosa di così grosso bisogna reagire, che vuol dire svuotare l'Olimpico immediatamente. Sì. Se i tuoi tifosi che portano i tuoi colori mettono quegli striscioni indecenti, sì, sì, e lo stesso guarda, vale a Napoli. Allora ascolta, tra l'altro Pierluigi Pardo questa sera avrà ospite a Tiki-Taka, sì, di sì, nuovo sentiremo il punto di vista anche della mamma di Ciro e cercheremo anche di capire ovviamente insomma che tipo di umori ci sono in città anche a Roma. Sì. Io credo che insomma gli striscioni sono ovviamente sono striscioni bruttissimi che non hanno prima di tutto perché il modo di reagire alla morte di un figlio è qualcosa di assolutamente soggettivo e personale. È vero che la signora De Falchi, tra l'altro abbiamo cercato anche la signora De Falchi e il figlio ha scelto un'altra strada, ma questo che cosa vuol dire? A me sembra, per quella che è la mia esperienza anche a livello proprio di Tiki-Taka, mi sembra che l'unico posso garantire che dal mio punto di vista che l'unico interesse di questa signora è stato quello di testimoniare in questi mesi un messaggio di pace. Sì, sì, questo, mi sembra questo che non abbia mai, sinceramente, magari mi sbaglio, ma mi sembra che non abbia mai ceduto, e poteva essere facile nella sua situazione, all'idea della vendetta, vendetta. Sì, sì. No, e quindi questo mi sembra incontrovertibile. Senti, Pier, volevo farti una domanda. Solo per chiudere, poi chiaramente c'è un aspetto legato a quello che è successo quel giorno, che è un aspetto di magistratura sul quale avremo prima o poi, speriamo, delle risposte certe e concrete. E questo è un altro discorso. Per quanto riguarda la signora, mi sembra che insomma. Volevo farvi invece una domanda che parte da un SMS, che è questo. Certo, anche voi continuate a dare spazio a un branco di bestie, l'unica cosa che fate è fargli pubblicità. È un messaggio in parte condivisibile. Allora, quegli striscioni, io ho detto, sono violenza pura. Come bisogna trattare le immagini relative alla violenza pura? Li facciamo vedere, li denunciamo, ne parliamo per giorni? Oppure, cosa che trovo inaccettabile, com'è possibile che quegli striscioni rette da mani note, perché basta guardare su internet, si vedono le facce di questi che sorreggono gli striscioni, inaccettabile che non vengano fatti sparire 8 secondi dopo, mentre quei tizi che sorreggevano gli striscioni oggi sono in campagna a fare le grigliate e magari a vantarsi con i giornali in mano. Posso fare una provocazione? Sì. La Roma ha fatto, la curva sud della Roma ha fatto anche un gesto comprensibile dopo i 3 gol di Roma-Fiorentina, ha svuotato la curva, non è così difficile mi sembra, visto che ci sono riusciti, è stato anche un messaggio interessante, perché non può fare altrimenti? Sono d'accordo che noi non dobbiamo dargli chissà quale visibilità, ma se non sanno difendersi ne dobbiamo parlare, non possiamo passarlo sotto silenzio, è sempre il solito discorso, nel momento in cui succede qualcosa di grave lo si passa sotto silenzio, si diventa complici, quindi svuotiamoli questi stadi, forse vogliono questo queste persone, lasciamoli da soli, dimostriamo che a tutte le persone che in qualche modo simpatizzano per loro, per qualche magari razzismo, campanilismo, dimostriamo loro che cosa sono queste persone, non possiamo stare zitti, è impossibile. No, e lo so, però è un discorso molto complesso, però poi si rischia di diventare complice da un'altra parte, su un altro versante, Pardo. Sì, sì, ma questo è l'eterno dilemma che riguarda il rapporto fra le cose brutte di cronaca, l'effetto emulazione e i media, è un discorso che viene fatto spesso. Io credo che insomma non è la prima volta che assistiamo a striscioni di questo tipo. Anche nella partita dell'andata c'era uno striscione, lo dico per onestà intellettuale, c'era uno striscione di possibile minaccia. Qui dobbiamo fare tutti un passo avanti. A me quello che dispiace è che mi sembra che le presenze numerose che ci sono state della signora in televisione fossero presenze finalizzate proprio a favorire un tipo di cultura di questo tipo, a fare un passo avanti. L'ha ripetuto anche la settimana scorsa, accordando un perdono cristiano a chi ha ucciso suo figlio. E ripeto, lì poi chiaramente ci sarà da aspettare la magistratura per capire bene esattamente quello che è successo. Quindi lì quello è completamente un altro discorso. Però qui siamo di fronte a una mamma che ha perso il figlio e che, dopo aver perso il figlio, ha fatto questo. Ha girato molto per secondo me, con l'unica finalità di dire cerchiamo di fare un passo avanti. E sì, questa occasione mi sembra sia stata persa. Il nostro ruolo, io la domanda che mi faccio anch'io, sinceramente, se certe immagini o certi argomenti debbano essere trattati. Se non li tratti sembra che uno sia evasivo, se li tratti rischi di favorire di fare il loro gioco in qualche maniera. Però è un problema, secondo me, ci vuole rispetto per tutte le tragedie di tutti i tipi: De Falchi, Paparelli, Superga. Bisogna indignarsi sempre nello stesso identico modo, perché qui sono d'accordissimo. Però attenzione, ricordiamo sempre che noi siamo in una società in cui, se giornali e TV e radio ignorano quello che succede, comunque passa per internet, passa per i social. Siccome non possiamo censurare tutto, non possiamo silenziare tutto, bisogna per forza parlarne. E una cosa che bisogna fare, secondo me, è difendere quella donna. Nessuno lo ha detto, pochi lo hanno detto, ma Antonella Leardi è andata il giovedì prima della partita a presentare il libro Ciro Vive, il libro di cui si è tanto parlato, allo Stadio Olimpico. Ma immaginate che cosa possa essere per lei aver fatto quel pezzo di strada dove era morto il figlio solo per dare un messaggio. E in questo io applaudo Malagò, di cui avete mandato l'audio, perché è l'unico che si è speso con la faccia, con la voce, per far capire questo messaggio di pace. A quell'incontro c'era una rappresentanza del calcio Napoli, c'erano tante altre rappresentanze, non c'era il sindaco di Roma, non c'era un assessore romano, non c'era un dirigente romano, non c'era Morgan De Santis che ha giocato a Napoli, non c'era Daniele Verde che è nato a Napoli. Cioè non c'è, nessuno vuole dare alla Roma la colpa di quello che è successo. La cosa incredibile è che una buona parte dei suoi tifosi rivendicano questa colpa, dicono Danielino con noi. E allora sì, la Roma deve dire: non ci riguarda, queste cose non sono roba nostra. Nessuno pretende che si scusino, non è certo colpa della Roma né di tutti i romanisti bravi e che mai farebbero una cosa del genere. Ma siccome c'è qualcuno che rivendica in nome della loro identità quello che è successo, si devono staccare, come noi ci stacchiamo da chi grida vendetta, perché siamo dalla parte di Antonella Leardi, che vendetta non vuole, e comunque siamo delle persone civili. E siamo soprattutto dalla parte, Boris, dalla parte di... E in questo devo dire che le due società, forse, è chiaro che è facile da qui, poi, però le due società qualcosa in più dovevano fare. Ma perché non lo fanno, Pierluigi? Guarda, allora, perché hanno paura? Io ti dico, no, la Roma all'inizio, e quindi torno a qualche mese fa, la Roma, che chiaramente ha una, in questo momento ha un management americano molto distante da queste questioni, credo che sia rimasta fuori all'inizio proprio perché è un tipo di territorio sul quale proprio non volesse scendere, perché lo considera completamente distante dalla propria cultura e dalla propria posizione. Però io credo che, insomma, dopo un anno passo avanti un po' più concreto, un po' più plateale. Si poteva fare. Il comunicato di ieri della Roma, secondo me, è un comunicato che dimostra quanto si abbia paura. Io ci vivo a Roma e li posso anche capire, quanto si abbia paura di quella frangia, perché giustamente il management americano non ha idea di dove è andato a lavorare e sta capendo che cosa succede. E questo vale per tutti gli ultras. Quando Capello dice il calcio italiano è in mano agli ultras, ha ragione, si ha paura di queste persone, spesso si ha un rapporto ambiguo con queste persone. Sì, basta. Grazie Boris, buon lavoro. Grazie a voi, ciao Boris. Ciao, Lazzo. Ciao. Si ricomincia. Tutti convocati. E si ricomincia, caro Pierluigi Pardo, con due ascoltatori, Giuseppe da Milano e Maria da Roma. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Tre piccoli spunti. Il primo, che cosa dobbiamo fare noi tifosi del Napoli con questo allenatore che ormai sono 6 mesi che puntualmente sbaglia formazione e ormai è un fatto conclamato? La domanda è: non avrebbe fatto meglio probabilmente De Laurentiis a fare un colpo di mano, a rimandarlo a casa e trovare una soluzione diversa, visto che ci sono dei fiorfiori di allenatori italiani disponibili? Questa è la prima. La seconda, sul discorso degli ultra, lo sappiamo tutti che le società sono ostaggio di questi delinquenti, purtroppo gli interessi sono troppo intrecciati. Sono molto pessimista, ho avuto la possibilità e la fortuna di vedere eventi sportivi tipo partite del Tre Nazioni in giro per l'Europa. Bisognerebbe proiettare queste partite nelle scuole per vedere come i tifosi e le famiglie di diverso tifo sono sedute l'uno vicino all'altro e, credetemi, scorrono fiumi di birra. Io sono astemio. Sì. La terza cosa, per quale motivo una società in Italia, se non ha i requisiti, può fallire e va in tribunale e il Parma no? Grazie, vi ascolto per radio. Grazie a lei, Giuseppe. Tre temi molto diversi a partire da Benitez. Sì, beh, insomma, il secondo, diciamo, l'abbiamo affrontato lungamente. Il primo, ma sì, col senno di poi, certo, col senno di poi si può dire che sicuramente il campionato, la stagione del Napoli è fallimentare ad oggi. Ci sono le coppe, una delle quali può dare una, chiaramente può sostituire il campionato, nel senso che se la vinci ti porta in Champions League. È pure vero che la strada è molto stretta, perché comunque arrivi alla finale del 27 maggio e sei sempre perennemente appeso, ammesso che tu riesca ad arrivare in finale, sarai sempre fino all'ultimo. Hai la sensazione che questi risultati influiranno sulla permanenza di Benitez o le decisioni passano per altre strade? No, io penso che non ci sia mai stata chiarezza da una parte e dall'altra sul futuro di Benitez, e che chiaramente più si va avanti in questa direzione più la possibilità che Benitez vada via è concreta, insomma, ma legittimamente, perché se non dovesse arrivare una vittoria in diciamo la verità, la Coppa Italia, chiaramente, ammesso poi che si vinca la Coppa Italia, perché c'è adesso la sfida con la Lazio e poi un'eventuale finale contro Fiorentino Juve, la Coppa Italia è qualcosa di bello, perché è bello alzare i trofei ed è bellissimo, chiaramente, ma non ti dà il posto in Champions, e quindi chiaramente dal punto di vista delle prospettive economiche, tecniche, di futuro di una società, vale fino a un certo punto. Per arrivare alla Champions la strada migliore in questo momento è l'Europa League, ma è una strada comunque molto complicata. Benitez gioca tutto in quello. Il vero paradosso è che contro la Roma il Napoli non ha giocato male, ha giocato forse la migliore partita dell'ultimo mese e mezzo. Ha trovato una Roma finalmente, secondo me, non guarita ma solida, ancora poco brillante, ma che solida. ha ritrovato un'idea di spirito, no? Sì, la prestazione di De Santis, la prestazione di Manolassi, il lampo di Pjanic, Astori, cioè ha trovato comunque 4-5 giocatori che l'hanno presa per mano. Poi chiaramente ci sono stati anche gli episodi, il fatto di aver pescato il jolly, le grandi parate di De Santis, e alla fine il risultato è stato questo. Parma non va in tribunale perché è impegnato sul campo a far del male all'Inter, questa è la risposta. Sì, la risposta che possiamo dare, ma tra poco parliamo. Ha fatto male anche un mese fa alla Roma, ha pareggiato contro l'Atalanta. C'è grande, devo dire, c'è grandissima dignità, è banale dirlo, ma insomma, c'è grande. Io penso, stasera sono curioso di sapere, mentre qualcuno mi dice che è Vito Donadoni perché ha giocato contro l'Inter, la settimana prossima vedremo che cosa mi diranno, perché già sono l'ospite top della prossima settimana a Tiki-Taka, sì. Ma comunque sono banalità. No, io ti dico che Donadoni in questo momento, secondo me, è interessante sentirlo. Sì, è interessante, sì, certo. Sentirlo, ma non tanto su Inter Parma, sui due mesi che ha vissuto e su come sta riuscendo a dare comunque alla sua squadra ancora un orizzonte, ancora degli obiettivi. Se sono intelligenti, capiscono che è il loro lavoro, no? A prescindere che conviene a tutti non darla su, ma continuare a lavorare per il futuro. Procederà ovviamente, ma il Parma in questo momento è più visibile rispetto a due mesi fa o a tre mesi fa. Cioè, oggi qualsiasi partita del Parma, qualsiasi risultato del Parma può essere giustamente sottolineato, può essere evidenziato, può ovviamente questa squadra conquistarsi delle simpatie, e quindi i giocatori hanno certamente in questo momento, rispetto a qualche mese fa, la possibilità di fare qualcosa che rimane. Sì, ma anche per se stessi, anche per se stessi, dimostrando professionalità, continuando ad allenarsi, a lavorare e a fare il loro mestiere. Maria, buongiorno. Pronto, buongiorno. Senta, io tanto le faccio una premessa, non sono tifosa né della Roma né del Napoli, perché sono una vecchia signora di 86 anni, tifosa del Cagliari, sì. Quindi voglio dire una cosa su questi striscioni. Io sento spesso le radio romaniste ed è un continuo incentivo alla violenza. magari molto sotterranea, ma viene a giocare l'Inter e dicono: ah, ma non dimentichiamoci che nel 90 l'Inter ci ha rubato 3 punti fondamentali per lo scudetto. Si parla della Juve, ah, speriamo che le squadre contro la Juve facciano il loro dovere, poi vanno a Catania e fanno una partita vergognosa che chiunque altro l'avesse fatta avrebbero detto che si erano venduti. Quest'anno ho sentito poco prima della partita con Napoli il complotto per cui i tifosi del Napoli potevano venire a Roma mentre quelli della Roma non sono potuti andare a Napoli. Cosa vogliono fare? Vogliono vedere come si comporteranno questi teppisti della Roma, ma noi dobbiamo dare un esempio, e quell'esempio l'hanno dato. Un'altra cosa che secondo me è intollerabile è continuare a dire sono 4 conosciuti. Non è vero, io ho visto in televisione l'altro giorno un servizio nel quale si diceva che gli striscioni erano stati tagliati in pezzi e dati a delle persone assolutamente non sospette e non conosciute per farli entrare nello stadio. La curva è enorme e non vi venite a dire che se fossero stati solo quei 10-20 che lo tenevano. No, però Maria, però cominciamo da quei 10-20 che lo tenevano, poi andiamo, poi si andrà a capire il resto, no? Si andrà a capire, cioè se mi danno uno striscione da portare entro lo stadio, gli dico aspetta, cosa c'è scritto, che perché, per quale ragione, eccetera, eccetera. Quindi io non voglio stare ad allargare il tiro all'infinito, ad allungare il discorso all'infinito, però mi basterebbero i proprietari di quelle mani che reggevano lo striscione, sì, sì, e sì, che sì. Basta guardare una qualunque foto sul web, sono lì. Oggi sono, come detto, a fare le grigliate per Pasquetta. Assolutamente, e lo dico non perché non è la prima volta che succede, cioè non esiste da questo punto di vista, purtroppo non esiste la curva che è sempre buona e la curva che è sempre cattiva. Esistono delle cose terribili che leggiamo in giro nelle curve di tutta Italia e di tutta Europa, degli scontri che esistono ovunque, però è chiaro che bisogna intervenire, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Io credo veramente non ci sia nulla da discutere su questo. Il comunicato della Roma di ieri sicuramente è un comunicato, per fare un discorso di sollazzo, non particolarmente caldo ed espressivo, però è comunque un comunicato nel quale si fa un riferimento di rispetto nei confronti della mamma di Ciro e nei confronti di tutte le vittime, di tutti gli episodi che ci sono stati. Diciamo che un minimo sindacale è stato raggiunto, anche se con un po' di ritardo. Pier, volevo farti sentire però una cosa, abbiamo già un ospite che ci aspetta e l'argomento è diverso, poi riprendiamo tutto con voi, 800 24 00 24, ma intanto che manca in qualcosa, ma per far questo abbiamo bisogno di un po' più di tempo e non abbatterci quando le cose non vanno. Il campionato è lungo, io credo che avremo la possibilità di agganciare il terzo posto o arrivare in Champions League da un'altra strada, quindi bisogna sempre crederci. Io parlo per l'Inter, vorrei difendere l'Inter con spada, scudo e tutto per non perdere nessuna partita da adesso in poi. Quindi prendiamo tutte le spade che abbiamo qui per difendere bene e anche attaccare per vincere. Cerino prova a girarla, Varela spazio per il cross, lo effettua, poi il colpo di testa di Lila, il Parma pareggia al secondo gol in Serie A per l'albanese Lila, 1-1, è finita un'altra delusione per l'Inter che si fa fermare in casa dal Parma. No, ma io sono allenatore della squadra, quindi io mi prendo la responsabilità di questa situazione, non la squadra fa quello che può fare, lo fa al massimo, e quindi io sono allenatore e sono il primo responsabile di tutto questo se siamo qua, quindi sono dispiaciuto, perché poi mi spiace soprattutto per tutto quello che gira intorno all'Inter. Quindi è vero che ha annullato il riposo di domani prima delle domande dei miei compagni? Sì. Quindi vi allenate a Pasqua? Sì. Hai delle certezze per il prossimo anno? Perché quasi quasi per vincere lo scudetto avete in mente di dover fare una rivoluzione? E a volte bisogna fare le rivoluzioni per cambiare qualcosa. Tommaso Labate, prestigioso, con un'ottima firma del Corriere della Sera. Ciao, non volevo girare il coltello nella piaga, ma Trono di Spade gira, ma tanto è Trono di Spade, mica tanto. Un momento drammatico, pur la musichetta che gli avete messo, secondo me era troppo allegra. Tommaso, è Trono di Spade. Evocato da Juan Jesus, che ha detto: Shaqiri, guerriero della luce, dobbiamo prendere tutte le spade che abbiamo per difendere l'Inter. L'aveva detto giovedì. Proprio, io citerei Mario Brega quasi quasi. quale delle citazioni? Il sinistro di Mario Brega può essere Ferro, può essere Piuma. Tutti i giorni è Piuma. Con lei sarà Piuma, signor. È stata fortunata. Io devo dire che Mancini l'altro giorno l'ho visto veramente diverso dal solito, molto provato. Secondo me ha finito le parole pure lui. Ma non voglio citare l'amico Pierre, che l'ho visto su Periscope esordire con una ripresa da un ristorante italo-indiano. Ma noi siamo un ristorante italo-indiano, cioè fondiamo delle ricette che non c'entrano nulla. Cioè siamo una, cito sempre Pierre, siamo una madrigiana al curry, cioè una situazione drammatica, cioè non c'è niente da dire, non c'è nulla da dire, è uno scandalo, è una roba impotabile. Io fra l'altro ho fatto una reticulaccia che mi rimarrà appesa finché non smetterò di fare questo lavoro, perché ho fatto un tweet dopo Inter Genoa dicendo una squadra da salvezza che finirà al terzo posto, invece siamo qua, da terzo posto che si salva. No, sì. non è una squadra da terzo posto, però sinceramente io credo che si debba ragionare su quello che è successo quest'anno. Cioè, secondo me il cambio in panchina è stato un cambio, lo dico, lo so che Mazzarri è la persona più impopolare fra il popolo nell'azzurro, però me ne assumo la responsabilità, è stato un cambio che non è servito a niente, perché anzi, paradossalmente forse con una squadra così, un allenatore un po' più di nervi, no? Forse poteva andare anche meglio, un allenatore più nervoso, più sull'adrenalina, sull'aggressività. È chiaro che aveva perso completamente il manico, ma la squadra gli era scappata e l'ambiente ancora di più. A Mancini la squadra non gli è scappata, a Mancini la squadra gli scappa, e poi si arriva al giorno in cui Mancini si sente tradito definitivamente, che fa fare allenamento alle 8:30 del mattino, uh-huh, e Ausilio dice: visto che oggi sono riposati, domani si allenano. Quindi alla fine non lo so, forse ha provato la carota. Mancini è un grande allenatore, sicuramente ha ottenuto risultati importanti nella sua carriera, ha provato con una sorta di strategia del sorriso, della bontà, della campagna elettorale, torneremo alla grande Inter, ha avuto un ruolo che secondo me ha funzionato sui media tantissimo, che ha funzionato sul pubblico, ma che non ha funzionato per niente sulla squadra. Tra un attimo, subito dopo il traffico, Tommaso Labate risponde e vorrei chiedergli anche, Mancini dice si lavora per l'anno prossimo, dice Mancini, ma se si lavora per l'anno prossimo rimane davvero poco su cui lavorare. Penso alla Lazio, penso a delle squadre che magari hanno avuto delle stagioni difficili come quella dell'anno scorso e poi si ritrovano con poco, con qualche investimento, con delle idee a essere stracompetitive subito e lottare per addirittura il secondo posto già da quest'anno, quindi bisogna essere positivi e noi lo faremo. Tutti convocati. Allora, Tommaso Labate diceva Pardo: cambio in panchina inutile, la carota di Mancini inutile, allenamento da Pasqua alle 8:30 del mattino presumibilmente inutile, il lavoro per il futuro sì, ma forse serve una rivoluzione, e quindi? E quindi ha ragione un po' Pierre, perché se noi facciamo, solitamente quando succedono queste crisi di metà anno, si individua spesso un colpevole, sai, uno dice Icardi non segna, il portiere fa le papere, il difensore non fa la diagonale giusta. Invece questa è una squadra che va male, in cui nessuno riesce a individuare un colpevole. Segno che un pochino, come dire, lo dico con tutti gli eufemismi del caso, perché al Mancio sono legato per motivi affettivi, gli scudetti dell'epoca pre-Mourinho, eccetera, segno che comunque manca l'anima, e l'anima l'anima la deve dare l'allenatore. Quando non c'è un singolo elemento che va male, ma è l'orchestra in sé per sé che non funziona, bisogna fare qualche domanda al direttore d'orchestra. Poi fra l'altro siamo in una situazione contrattualmente molto ingarbugliata, non possiamo privarsi di Mancini perché abbiamo già due allenatori sotto stipendio. È una situazione drammatica, peggio del Milan, siamo messi proprio malissimo, non ci sono parole. La responsabilità è dell'allenatore. Io al posto suo mi sarei fatto delle domande marzullianamente, avrei cercato qualche tipo di risposta, magari valutando, magari non subito, alla fine dell'anno, la possibilità di rescindere consensualmente, unilateralmente un contratto che a questo punto non si vedono in questo momento le ragioni per rinnovare. La verità è questa, mi dispiace dirla, ma è quindi questa. Mancini è giusto, è il momento che Mancini venga messo in discussione. Al momento no, ma si faccia delle domande, dica: sono stato utile alla causa, c'è stato un brandello di risposte in qualche intervista nella zona mista in cui ha detto dovevamo migliorare, doveva essere un intervento positivo, così non è stato. Si facciano delle, lui dovrebbe farsi le domande, non noi, perché non c'è un singolo colpevole. Non possiamo prendercela con Palacio che non segna, con Icardi che non segna, con Handanovic che non para. È proprio l'amalgama. Mi ricorda, c'è un vecchio film che si chiama Mezzo destro e mezzo sinistro, che c'è un Lotta che fa l'allenatore argentino e dice sì. Ci mancava un certo fraseggio, un certo arpeggio, e uno gli risponde: ah, colì, arpeggio di così non potevate fare. Mancini un po' la stessa cosa. Sei d'accordo, Pierluigi? Mancini in discussione, e bisogna farsi qualche domanda anche sul suo ruolo per il futuro. È chiaro, lui è dice chiaro che costruisco per il futuro, ma costruisci su cosa? Fino adesso è quasi tutto da buttare, eh? No, è chiaro che se discutiamo anche Mancini, che insomma è stato preso come la pietra su cui costruire la nuova casa, quindi insistere. Sì, insistere, a meno che non sia lui a rendersi conto clamorosamente del fallimento. E certamente il Mancini dell'altro giorno sembrava un Mancini molto provato. Io per un attimo ho pensato anche che pensasse al gesto estremo, in senso ovviamente di dimissioni o qualcosa di simile. Non credo che lui non... Io penso che lui abbia fatto una scelta chiaramente legata al valore, alla storia di questa squadra, al suo legame con l'Inter, che certamente è molto forte. Gli è stata data fiducia, insomma, io credo che qualche responsabilità ce l'abbia anche lui, che del resto si è autoaccusato da questo punto di vista, perché sì. Gli è stata data fiducia e gli è stata data una squadra dal punto di vista degli investimenti migliore di quella di Mazzarri. Sì, anche se mi sembra una squadra che non è di nessuno, non è di Mazzarri, capito, non è o non è ancora di Mancini, e chissà se lo diventerà mai. Certo, quindi... Però insomma, i soldi sono stati spesi, alcuni dei quali sotto forma di prestiti con obbligo di riscatto o di diritto di riscatto, quindi insomma in situazioni che sono ancora un po' temporanee, che dovranno essere meglio definite. Però insomma la squadra di oggi sicuramente è una squadra frutto di una serie di investimenti che prima non c'erano stati, quindi c'è anche da chiedersi se dando la stessa fiducia a Mazzarri magari qualcosa in più si poteva ottenere. Questo per quanto riguarda il presente. La riprova. Detto questo, buttar via anche Mancini mi sembra forte. Io gli darei fiducia, gli farei fare una campagna acquisti e un tentativo di ricostruzione, ma certo la strada è lunga, anche perché ripeto, Mancini è un allenatore abituato ormai al caviale, certo, ad avere grandi giocatori, ad avere presidenti che gli comprano quello che vuole. Certo, Tommaso Labate, per chiudere, il 19 di aprile un derby che non avreste mai voluto vedere, a prescindere dal risultato, che Milano non avrebbe mai voluto vedere. Sì, è un derby che certifica come il fatto che la capitale morale, come veniva chiamata una volta a Milano, agisce solo sul piano un pochino della moralità, perché comunque i deboli fanno sempre più tenerezza rispetto agli altri. È un derby triste, io vorrei evitare la situazione in cui comunque chi vince il derby e trova un modo per autoassolvere il resto della stagione. Questo faccio un ragionamento io che non sono milanese, cioè sono un interista tipico perché vengo dalla Calabria e quindi, come dire, odio più la Juve che non il Milan, quindi vorrei evitare la situazione che capitava spesso a Roma e Lazio, in cui se giocavo il derby e adesso è andato tutto a taraluce e vino. Spero che comunque venga fatta una riflessione, come dicevo prima, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista societario, perché la situazione così non va. Io lo ripeto sempre, l'ho detto anche qualche volta a Tiki Taka, una squadra, anche il capitano Ranocchia, è una persona squisita, splendida, eccetera eccetera, chiediamoci se può essere il capitano, il, cap- capitano insieme a Zanetti di una squadra come questa, andrebbe un pochino rivisto tutto, perché così com'è non va bene. E fra l'altro facciamoci pure domande sulla nostra continua esterofilia, il calcio business, eccetera eccetera. È arrivato qualcuno che doveva fare il calcio business, lo spettacolo, le magliette, gli abbonamenti, e invece si dimostra che il vecchio Moratti, imprenditore milanese, eccetera eccetera, un po' se la gestiva meglio. E il calcio business lo fai quando vinci, quando perdi diventa più dura. Spero, ragazzi, mi spiace di aver fatto di avervi un po' smosciato la trasmissione. Tutt'altro, anzi, l'attacco a Mancini è stato a vetriolo, e credo che gli ascoltatori avranno diverse cose da dire. Tommaso, grazie, un abbraccio. Grazie a voi, ragazzi. Ciao, Tommy. Paolo Pistoia, poi devo salutare Pierluigi. Paolo, buongiorno. Sì, buonasera. Buongiorno a voi e buon proseguimento di giornata. Volevo appunto intervenire sul discorso di Mancini. Non sono un interista, però mi sembra che Mancini, abituato al caviale, in questo momento stia masticando carne di maiale, e do ragione perfettamente a quello che ha detto Pardo. Poi volevo dire alcune cose su due allenatori molto in gamba. Primo è Montella nella Fiorentina sta facendo un lavoro entusiasmante, sta ripagando la società di tutti i sacrifici che hanno fatto, e sì, in barba ai fiorentini chiaramente, che loro si affezionano ai giocatori, vedi Antonioni, vedi Baggio, è uscito questo fenomeno che era Quadrado, è entrato questo Salà, che chiaramente mi sembra che abbia un passo superiore. Montella è stato bravissimo a mettere insieme una squadra di giocatori sconosciuti. Un altro allenatore che vorrei ricordare è Allegri, ma non perché è primo in classifica, perché sta lottando su tutti i fronti, perché è un signor allenatore. Guardi, abbiamo detto molte volte, e io continuo a dirlo, che per Allegri è la stagione della consacrazione, per Montella forse quella della prosecuzione di un lavoro già fatto benissimo fin qui. Bellissima. Per quanto riguarda, scusate se intervengo così su due o tre fronti, per quanto riguarda i problemi che ci sono con gli ultras, è chiaro che tutte le società hanno quei 200-300 scatenati che fanno del casino, che sono delinquenti. Questi sono delinquenti autorizzati. Sono anche persone che campano su quello che è una sorta, che è non una sorta, ma è un mestiere ai confini della legalità. Devo salutare Pierluigi Pardo, però, perché ciao Pierino. Buon tiki taka stasera. Ciao. Noi Pasquetta, ma siamo qui ancora per mezz'ora dopo una breve interruzione. Non si rendono conto che il tempo è finito. Finisce qua primo tempo. Che dire? Arrieccici. Convocati. James, Ronaldo! Non poteva mancare la sua firma nella riscossa blanca. Sono 32 in campionato per quello con il 7 sulla maglia. Attenzione a Ronaldo! Ancora CR7 in 10 minuti. Il Real ne segna 3 al Granada. Ronaldo non segna il gol del 4-0, cala il poker Real Madrid in 37 minuti. Marcelo cerca ancora Benzema, Bale sbuca sul secondo palo, Ronaldo cala il poker personale, Cristiano Ronaldo che va anche a sbattere contro il palo, 6-0. Lancio di punizione sul secondo palo, Ronaldo, eccolo il quinto gol personale di Cristiano Ronaldo. Gignac dentro a Juetoven, Gignac allarga dalle parti di Payet che è liberissimo, lo pressa Matuidi, pallone sporcato, Gignac sul secondo palo, c'è André Pierre Gignac, raggiunto Ibrahimovic, sbloccato le classiche, ci pensa quel testone di André Pierre Gignac, 1-0. Matuidi, finta di tiro, adesso fa col destro Matuidi, ma che cosa ha fatto Blaise Matuidi, un gol bellissimo del 14, con il destro che non è il suo piede, aggancia l'OM. Attenzione a Gignac che si presenta nel rete di gol. Gignac non può mai sbagliare da quella posizione, ancora André Pierre Gignac, sono due per l'OM, uno per il Pese, esplode nuovamente il velodrome. Ma Ibrahimo Alves che scivola, la palla resta lì, Marquinhos l'ha messa alle spalle di Mandanda. Marquinhos sotto porta come fosse un attaccante. Pastore con l'esterno da Ibrahimovic, 100 volte Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Paris. Prende Morel prima di Ibrahimovic, dunque autogol di Morel per anticipare Ibrahimovic. Rapido riassunto di quello che si è visto nel giorno di Pasqua sui campi d'Europa. Anche a me piacerebbe l'idea di giocare a Pasqua e non al sabato, però. Enzo Bucchioni, che piacere, ciao, buona Pasquetta. Buona Pasquetta anche a te, ciao Carlo, ciao a tutti gli amici che ci ascoltano. Dappertutto si gioca a Pasqua, come è giusto che sia, come si gioca a Natale in molti casi, o Santo Stefano, eccetera, cioè quando la gente ha tempo e voglia di andare a vedere le partite. Da noi invece si va con il sabato, con le notturne, gli anticipi e i posticipi, ma va bene, sì, anche così. Ma mi è venuto un po' di magone sentire tutta sta roba che hai messo, perché quei giocatori lì una volta erano qui da noi, ora senti queste urla, sono tutti fuori. Ibrahimovic, tutti lì, sì. Ronaldo, tutto, che... ieri è stato uno spettacolo che noi non riusciamo più a vedere, purtroppo. Sì. Anche se partite come quella di Madrid, 9-1 al Granada, per fortuna da noi se ne vedono non tantissime, perché molte partite in Spagna sono, diciamo, rivedibili. Sì, bellissimo quella di Marsiglia, dove Paris Saint Germain ha vinto 3-2, si è riportato in testa la classifica, stadio meraviglioso, coreografia fantastica, anche qualche atto di teppismo prima della partita si diceva. E Supermarket Italia che sta per riaprire, caro Enzo Bucchioni, perché si legge Dybala e Felipe Anderson e Pogba e Tevez e Salah. Ce la fa la Fiorentina a tenere Salah? Ma io credo proprio di sì, sarebbe una beffa autentica, anche perché c'è una clausola rescissoria in favore della società viola. E Della Valle, una delle cose che ha detto prima di Pasqua, ha convocato un vertice non a caso, ha detto riscattiamolo subito a 15 milioni di euro, perché la Fiorentina ha la possibilità di prenderlo anche l'anno prossimo a 18, avendolo per un anno in pratica gratis, però meglio prenderlo subito a 15, non soltanto per risparmiare 3 milioni, ma per evitare quello che stai pensando tu, cioè l'attacco, l'assalto Di tutte le più grandi squadre d'Europa, che sarebbe difficile poi trattenere un giocatore così, anche se non guadagna poco, insomma 2 milioni a questo livello Fiorentina è già tanto. Certo, quando vedi un giocatore come questo ti chiedi come mai il Chelsea l'abbia lasciato andare via, sì, come mai altre squadre non l'abbiano visto prima e come mai sia finita la Fiorentina. Vogliamo dire che sono stati bravi i dirigenti viola? Dai, una volta diciamolo. Sì, ma bravissimi. No, ma la Fiorentina, guarda, ne parlavamo anche prima con Pardo, ha avuto una prima metà di stagione difficile. E poi il mercato l'ha ribaltata, ma anche nello spirito, anche nelle emozioni, se vogliamo. Allegri ha parlato di Salah, mi pare. Se Salah è un buon giocatore, credo che la Fiorentina abbia fatto un ottimo acquisto con Salah e abbia tratto dei vantaggi importanti da questo scambio. Vantaggi importanti, sì, ma la Fiorentina è stata quella che è la regina del mercato d'inverno, no? E sul campo si è visto, c'è un progetto che aveva perso quasi intensità, aveva perso quasi voglia, e che con gli aggiustamenti giusti, bravi quelli che hanno fatto il mercato, Enzo, adesso è tornata la squadra che molti ammirano e invidiano. Assolutamente, questa è stata come una sorta di scossa elettrica che è arrivata, adrenalina pura dal punto di vista emozionale, perché un giocatore così è qualcosa di unico per le caratteristiche. Poi dal punto di vista tattico ha cambiato la Fiorentina, abituata a giocare in orizzontale. Cuadrado è un altro bel giocatore, ci siamo divertiti tanto a vedere giocare Cuadrado, però un giocatore che saltando l'uomo poi ritornava a fare il solito passaggio in orizzontale, raramente puntava dritto verso la porta. Questo Salah è una furia veramente che punta diritto alla porta e la vede in maniera eccezionale. L'altro giorno sembrava lui corresse l'altro dietro il motorino e non ce la faceva riprenderlo, quelli della Sampdoria, ma è successo anche con la Juventus all'andata, ricorderete due gol di Salah che poi andò a chiudere davanti al portiere con una diagonale dalla parte opposta, in corsa a quella velocità veramente incredibile. Sì. È un giocatore che secondo me, avendo 22 anni, ha ancora anche margini di miglioramento. Ora, campioni sono tutti, sai, quando vedi queste cose è facile dire è un campione, no, ma Certo. Stiamo calmi, ci vuole, però quello che ha fatto vedere fino ad oggi nell'acquitrino dell'altro giorno, un giocatore così tecnico sembrava andasse sulle acque, no? Come quella volta ci diceva, camminava sulle acque qualcun altro anni fa. Lui ci camminava davvero l'altra sera. No, ma comunque si vedono le scintille, ma lo stesso discorso per me vale anche per Felipe Anderson. Quando li vedremo ripetersi per 2-3 stagioni a questi livelli e con continuità, allora possiamo possiamo scomodare qualche parola tipo campione, fuori classe, eccetera. Per ora certo. sono dei giocatori molto eccitanti, questo dico. Potrebbe essere molto eccitante anche la partita di domani sera, ma secondo me tutto dipenderà dalla Juventus. Cioè, la Juventus avrà voglia di venire a Firenze a fare una durissima battaglia sportiva o avrà in testa altri pensieri? Ma questo che è un interrogativo, io credo che Allegri oggi abbia mentito sapendo di mentire, e lo deve fare perché quella è la sua parte, ma che la Juventus venga qui a spremersi in un momento difficile della stagione, perché fra una settimana c'è la Champions League e lì oltre alla gloria c'è il Monaco che puoi battere, sappiamo, e ti porterebbe dritto in semifinale, oltre alla gloria ci sono in ballo un bel pacco di milioni di euro che ti fornisce la Champions League, e questo può garantire alla Juventus un mercato probabilmente anche senza vendere Pogba, io ci credo poco, ma insomma se arrivassero 40-50 milioni dalla Champions magari vendere Pogba ci pensi due o tre volte, e quindi c'è molta più polpa fra una settimana e domani sera. Ribaltare il risultato è già difficile a cose normali, figuriamoci quando hai in testa altre partite, altri avvenimenti che ci saranno fra poco. Certo. Quindi io la vedo molto dura per la Juventus, anche perché la Fiorentina sta fisicamente benissimo, tutti hanno recuperato. No, devi venire lì a giocare una partita perfetta. Se hai una partita perfetta nelle gambe, dal punto di vista dell'intensità, di tutto quello che devi mettere in campo per fare un grande risultato, te lo giochi tra una settimana forse. Cioè, magari stai qua, stai attento, vai, vedi come gira il vento e poi magari fai due conti. Sì, non c'è dubbio, perché la Juventus deve venire a Firenze, segnare due gol, non subirne, insomma mi sembra tutto molto complicato, fra l'altro ha dei centrocampisti che non stanno benissimo, recupera Marchisio, ma punto interrogativo, come sta? Cioè passare una settimana da un crociato rotto a essere rimesso in campo, forse c'è una via di mezzo, sappiamo che Pirlo non c'è, lo stanno recuperando, quindi... una partita estremamente complicata, perché la Juventus deve attaccare, la Fiorentina con questo Salah, l'abbiamo appena detto, ribaltando l'azione se trova dello spazio, qualche gol magari riuscirà a farlo, e anche dal punto di vista tattico è complicato per la Juventus andare a fare. Senti, un risultato. Sì. La classifica, io ho aperto programma dicendo che il sabato di Pasqua ci ha lasciato una classifica ormai ben definita, cioè che ha il sapore di definitività quasi. Ma sì, secondo me hai ragione, in coda purtroppo le tre che ci sono, Cesena, Cagliari e Parma, mi sembrano che abbia poca forza mentale, poca qualità per poter raggiungere l'Atalanta che ha messo... Vediamo Cesena che sta con Di Carlo, sta andando bene. Sì, sta andando bene, 4 punti sono pochi, ci sono ancora 9 gare, ma mi sembra che l'Atalanta sia una squadra più attrezzata, sì. Per certe imprese, Reia è un conduttore molto abile a fare certe imprese, sappiamo che chiude molto la difesa, l'Atalanta ha bisogno di trovare un maggiore equilibrio. Lasciamoci una porta aperta, ma mi sembra che sia definito davanti la Juventus, secondo me da gennaio, che ha vinto lo scudetto, forse prima, questo non c'è dubbio, da quando Garcia si è messo a suonare il violino quel mese era ottobre, ecco, quella sera lì ho detto è la fine, infatti c'è una profezia abbastanza facile, perché i proclami non vanno mai fatti. La Juventus ha cominciato a vincere lì, probabilmente. Sì, ha cominciato a vincere quella sera, e la Roma a perdere lì e a prendere quegli sberloni dal Bayern Monaco che all'inizio avevamo sottovalutato, partita storta ci può stare. Mentre si giocherà un derby di Roma per il secondo o terzo posto, immagino, cioè la Fiorentina non, insomma, sembra tanta roba quel distacco rispetto a una Lazio che comunque non smette di volare. Sì, è molto il distacco, 6 punti, però io ho dato un'occhiata molto attenta al calendario, non conta niente, ma sono giochini che a noi ci piace fare, e il calendario della Lazio è molto più complicato rispetto a quello della Fiorentina, ha molti scontri diretti, non soltanto il derby, mentre la Fiorentina deve andare a Napoli domenica prossima e poi scorre abbastanza liscio, non lo so, la Lazio ha fatto 7 partite, 7 vittorie consecutive, mi sembra una roba incredibile, durerà, ecco, questi dubbi ce li lasciamo fino in fondo, comunque la lotta per la Champions è quella più interessante, quella che allora ci rimane dalle briciole di questo campionato, tutto quel che ci resta, sì, del giorno del campionato. Grazie Enzo. Grazie a te, grazie agli amici che ci ascoltano, a presto. Ciao. A tutti. Buon ciao, pomeriggio. Grazie Enzo Bucchioni. Chiara da Vicenza e poi un altro amico al telefono. Chiara, buongiorno. Allora, buongiorno. Auguri di buona Pasqua. Io sono triste, una tragedia. Intertriste. Sì, intertristissimissima proprio. Sabato ero allo stadio, anche perché vabbè, sono abbonata, ho ancora il coraggio di abbonarmi, sì. Però ho visto giocatori non da Inter, non era la mia Inter, non era l'Inter del mio triplete, niente. No, ma quella là è lontana anni luce, è chiaro, bisogna, lo so, ormai bisogna però... emanciparsi dai ricordi, come devono fare anche i cugini del Milan, eh? Cioè è inutile star lì a dire Sarri è arrivato, ma infatti ora vediamo arrivare dall'Empoli come Sacchi dal Parma e rifanno tutti questi discorsi. Vediamo il 19 aprile che derby sarà, non lo so se che derby vuole che sia il derby della tristezza. No, piuttosto una domanda secca, abbiamo sentito prima Tommaso Labate dire Mancini il tempo è scaduto, cioè potrebbe anche fare il gran gesto e dire lascio sul tavolo, non fa nessuno, lascio sul tavolo tutti questi quattrini e mi dimetto che non ce la faccio. Mancini sì, Mancini no. Mancini sì, però si cambia squadra, cioè se lui vuole determinati giocatori che glieli comprassero, insomma. Lei quanto ci mette? Perché Tohir mi sa che ha bisogno di qualche soldino. Tohir deve spendere. Io purtroppo se avessi avuto la possibilità me la sarei comprata io l'Inter, però purtroppo l'unica cosa che posso fare è foraggiare andando allo stadio. Ed è già tanto di questi tempi. Mi sembra che San Siro... l'abbonamento... Io sto al secondo blu, 200 euro l'anno. Mica poco, mica paglia. Se fa così con la manina, la vediamo nel deserto di San Siro in questo finale di stagione. Grazie Chiara. A lei, auguri. Torni a trovarci, auguri. 800 24 00 24. Situazione non simile quella del nostro ospite, rispetto a quella di Mancini, però è sempre una panchina storica, è sempre un subentro della stagione in corso. Attilio Caia, buongiorno. Buongiorno Carlo, buon pomeriggio. Ciao. Open John Medis Varese, panchine storiche tu le hai girate praticamente tutte, questa ti mancava? Esatto, mi fa molto piacere. Come stanno andando le cose nel dopo Pozzecco? Ma devo dire che abbastanza bene perché siamo riusciti a fare le prime mie due partite casalinghe, a fare due vittorie molto importanti contro squadre che hanno dimostrato poi nelle successive partite di essere in grande forma, e mi riferisco a Cremona l'ultima e a quella prima contro Roma. Abbiamo fatto due partite dove c'era un po' di bisogno di invertire la tendenza perché il morale era sotto i tacchi dopo un periodo di sconfitte dove la fiducia, l'autostima era veramente ai minimi, e quindi siamo riusciti a far bene, a coinvolgere anche il pubblico ha partecipato, il pubblico ha apprezzato che la squadra giocasse con una bella energia, con una bella aggressività e così, e quindi si è trovata una bella atmosfera lì, e questo ci ha permesso di fare due risultati molto importanti quanto difficili, che hanno allontanato un po' le ombre del fondo della classifica e ci hanno permesso adesso di avere 5 partite alla fine, la possibilità che con un paio di altri risultati di avere la matematica certezza della permanenza nella massima serie. Siamo fuori da tutte le coppe, ultima esclusa Milano, eppure non c'è grande equilibrio in campionato, perché sappiamo già il nome dell'assassino, quello scritto sull'ultima pagina, sarà Milano, perché non vedo competitor, bravissima Reggio Emilia, bravissima Venezia, ci sono progetti, programmi, Sassari questo momento meno bravo, però sappiamo che è riuscita già a fare del male a Milano. Io credo che non si possa scappare da uno scudetto milanese. Però primavera interessante, perché è arrivato questo signore a Cantù, rivali storici di Varese, che ci ha riportato indietro l'orologio di qualche anno, quando arrivavano giocatori che eravamo abituati a vedere in televisione. Secondo me è stata una grande idea per tutti quanti, Attilio. Assolutamente, concordo al pieno, ha già avuto un ottimo impatto mediatico e si è parlato di basket in tantissime occasioni, e poi devo dire che anche il primo impatto, averlo visto nella prima partita contro Pistoia, è già anche un impatto tecnico, perché la squadra l'ha accolto nel migliore dei modi, lui ha dimostrato di essere per adesso il leader che si aspettavano, dimostrato di essere una forma penso anche migliore, considerato la sua inattività di un mese visto che il campionato cinese cui ha partecipato era finito anzitempo, e quindi è arrivato, ha già avuto un ottimo impatto sulla squadra. Cantù, che già aveva una squadra in crescita perché è una squadra del grande talento, che fino a quel momento magari non era, per anche per qualche difetto di personalità, non era riuscito a esprimerlo, può in questo finale di stagione riprendere quel posto di playoff che assolutamente gli compete, che può farlo diventare una squadra pericolosa, una squadra, la cosiddetta mina vagante del playoff, sì. Anche se ha un calendario dalla sua abbastanza difficile rispetto a altre squadre che stanno facendo, diciamo, questo mini campionato, sì, per raggiungere i playoff. Senti, poi in questi giorni si è sentito favoleggiare di Ray Allen a Milano, oggi vedo un video Kobe Bryant, Metta mi ha detto vieni, raggiungimi in Italia, devi venire anche tu, ovviamente favole, però può essere, non so, il primo arrivo magari nel finale di stagione, magari solo per i playoff, di qualche giocatore in grado di farci sognare? Beh, ma di sicuro, già il fatto che se ne parli, già il fatto che si prendano in considerazione, che anche dall'altra parte dell'oceano possano avere l'Italia come riferimento, si sappia che c'è anche l'Italia, perché Metal World Peace è venuto a giocare qui, quindi c'è anche l'Italia, e quindi insomma che qualcuno ne parli così può essere, già questo è molto importante. Se poi dovesse arrivare qualcun altro, lo sarebbe per il campionato, non penso a Milano, che Milano non ha bisogno di altri giocatori per vincere il campionato, ma quanto magari se qualcun altro si potesse farsi così solleticare dall'idea di dire va bene, proviamo a fare un'aggiunta, vedere se facciamo bingo, se prendiamo il super premio, il super enalotto, e questo sarebbe interessante, perché come dicevi tu, tante così le cose, obiettivamente si cerca di vedere il vero campionato, il vero obiettivo sarà a chi si aggiudica chi sarà la sfidante di Milano, sì, sì. Era un po' quando c'erano le regate, perché si facevano tutte le squadre, facevano la regata, la vincente andava a sfidare la Coppa America. Esatto, nella Coppa America, ecco. Sì, più o meno così. Un'ultima cosa, Attilio, cos'è mancato a Milano in Europa? Perché l'anno scorso aveva fatto, ce lo ricordiamo, una stagione al di sopra delle previsioni. Quest'anno sono stati spesi ancora soldi, è stata teoricamente migliorata la squadra, che ha più stazza, in teoria più talento, però ha fatto una campagna europea che a me viene voglia di dire deludente. Sì, è deludente perché soprattutto a posteriori, cioè si considera che Milano è fuori perché ha avuto un impatto negativo alla prima partita contro la squadra, adesso non riesco neanche a dire il nome impronunciabile, russo, però una partita assolutamente alla portata, Milano poi nel ritorno è riuscita addirittura a vincere anche in trasferta, quindi ancora più difficile, però quella prima partita e poi anche quella sciagurata partita a Vitoria che gli ha dato un meno 20 di scarto, quindi due partite che erano assolutamente alla portata, così pure come la partita in casa con l'Efes, perché l'Efes ha dimostrato di essere una buona squadra, quindi mentre per i primi tre posti obiettivamente era difficile, però per il quarto posto era alla portata. E cos'è mancato? È stata è strana da decifrare questa Milano, perché ti fa 20 minuti come a Istanbul, o addirittura come aveva fatto qualche tempo fa anche 30 contro Fenerbahce, di altissimo livello, che dici hanno svoltato, hanno risolto tutte le loro problematiche, e poi in 10 minuti vanificano tutto quello che di buono fatto, e quindi ti rimane sempre il dubbio di quale sia la quella vera, se è quella che ha fatto delle ottime cose, oppure se dici no, ancora sono indietro, mi manca molto, perché guarda quello che hanno fatto in 10 minuti. Sì, come diceva Nikolic, riempie il secchio e poi lo rovescia con un calcio, il vecchio professore quindi... L'aveva già capito. La saggezza dei detti è sempre attuale. Ciao Attilio, grazie, buon lavoro. Grazie, ciao, a voi, ciao, grazie. Ciao Attilio Caia. E così abbiamo parlato anche un po' di basket, ma sta facendo molto rumore. Leggi le cifre, Metal World Peace ieri contro, no, sabato contro Capo d'Orlando, 19 punti in 18 minuti, sbagliando praticamente mai dal campo, 7 su 8 se non ricordo male, almeno da 2. Gabriele Busto Arsizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Io sono un tifoso del Milan, ma in questo momento vorrei parlare unendo Yamamai della pallavolo. Sì, dica. Cosa ne penso del secondo posto in Champions, dopo la partenza difficoltosa in campionato? che se era prima era meglio. No, sto scherzando, è un grande risultato sportivo, mi sembra un grande risultato sportivo, ben superiore rispetto a quello che sta confezionando il suo Milan, Io non credo, mentre quelle hanno preso comunque una medaglia d'argento, perché quando si tratta di medaglie d'argento è sempre, bisogna sempre dire, è stata guadagnata e conquistata, non si è persa la finale. Io credo che Milan l'anno prossimo l'Europa la vedrà in televisione, la vedrà in televisione anche l'Europa minore, cioè quella dell'Europa League. Grazie Gabriele. Pier Augusto Stasi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Chi poteva vincere, chi se non lui poteva vincere nel giorno di Pasqua? Christoph era l'uomo da battere, ma soprattutto nella settimana santa, come viene chiamata la settimana che precede il Giro delle Fiandre in Belgio, che per loro è veramente religione, sì, sì. La tre giorni di La Panne, nella tre giorni di La Panne lui è riuscito a superarsi, in tre giorni ha vinto quattro tappe, e si era capito chiaramente dopo il secondo posto alla Milano Sanremo, quattro tappe, cioè quattro vittorie, perché tre tappe più la classifica finale della tre giorni di La Panne, era l'uomo di gran lunga superiore e l'uomo da battere. Bene, nessuno ce l'ha fatta, nonostante fosse controllato da tutti, a 30 km dal traguardo se n'è andato via con l'olandese Nicky Terpstra e l'hanno visto solamente al traguardo. Sì. È stata una vittoria anche fin troppo elementare, anche se sulle strade del Flanders di elementare non c'è nulla. Però questo ci dice quanto forte fosse, quanto ormai l'atleta norvegese abbia una caratura internazionale di grandissimo peso. Non è il solo, lo ribadiamo, non è solamente un buon velocista, è un uomo di fondo, di grande resistenza, di grande potenza, che riesce anche a sprigionare al termine di 264 km come il caso di ieri, o dopo 300 km come il caso della Milano-Sanremo, sì, dei watt micidiali, e quindi in grado anche di vincere delle volate ristrette di gruppo. Allora, un corridore che sa vincere le volate di gruppo, ma è tutto tondo. Ieri ad esempio quello che ha deluso per un pari grado, uno che aveva le caratteristiche quasi uguali alle sue, era quello di John Degenkolb, vincitore della Sanremo di quest'anno, che però invece ieri è mancato clamorosamente. Il duello doveva essere loro, invece c'è stata poi la grande impresa di Christoph nel giorno di Pasqua, la risentiamo. Adesso c'è lo sprint con Alexander Christoph, che non è stato neppure affiancato da Nicky Terpstra, e va lui per la prima volta a Norvegia al Giro delle Fiandre con Alexander Christoph. E così è andata nel giorno di Pasqua la corsa degli italiani? La corsa degli italiani, se mi consenti, diciamo, diamo anche un giusto peso al ciclismo femminile, se ne parla poco. La corsa degli italiani è quella maschile, vabbè, il primo degli italiani è Daniel Oss, è stato molto bravo perché è un gregario di lusso della Svizzera BMC, che ha lavorato tantissimo per il belga Grand Van Avermaet, che poi è arrivato terzo, e nonostante abbia lavorato fino all'ultimo è riuscito anche a essere il primo degli italiani, arrivando undicesimo. Dodicesimo invece Filippo Pozzato, che come purtroppo ormai ci ha abituato, gli manca sempre qualcosina nel finale, ma praticamente la volata quasi non l'ha fatta. Però il ciclismo italiano festeggia la prima vittoria nel Giro delle Fiandre con una ragazza, con Elena Longoborghini, Elisa Longoborghini, scusate, che ieri per la prima volta ha regalato questa corsa al ciclismo femminile italiano. Elisa è una figlia d'arte, e sua mamma è Guidina del Sasso, suo papà è un allenatore, suo fratello Paolo Longoborghini ha corso fino all'anno scorso per la Canon del Garmin, quest'anno è entrato a far parte dello staff di RCF Sport, quindi darà una mano all'organizzazione del Giro d'Italia. Cioè, è una ragazza cresciuta in ambito sportivo, ha soli 23 anni, ha vinto già una medaglia di bronzo ai mondiali di Valkenburg, ha avuto anche un brutto incidente che gli ha fatto saltare anche le Olimpiadi di Londra, ed è un talento assoluto. Dopo due quarti posti al Giro delle Fiandre, ieri ha vinto in perfetta solitudine. Se n'è andata via anche lei quasi come Christoph Terpstra a 30 km dal traguardo, e si è goduta a pieni polmoni questa cavalcata proprio sul percorso dei maschi, tra due ali di folla, tra una veramente una moltitudine di appassionati, perché ieri hanno dicono chi era là, che ci saranno stati almeno 1 milione di spettatori. Non a caso la settimana santa, non a caso la settimana santa, non vogliamo denuncia per blasfemia, la settimana santa del ciclismo e delle grandi classiche del nord. Non è previsto il gran ballo però tra Christoph e la Longoborghini come accade a Wimbledon, no? Tra re e la regina. Perché Christoph era stato in Belgio, perché domenica correrà la Parigi-Roubaix, invece Elisa è tornata subito a casa. È già tornata in Piemonte a casa sua, dove starà qualche giorno qui e poi ritornerà al nord, perché ha altre due gare, in modo particolare la Freccia Vallone, altra gara, perché all'estero hanno questa cultura che stanno comunque, grazie al cielo anche l'Italia è stata contaminata, e quindi ci sono gare come il Giro dell'Emilia che aprono anche, viene coniugata anche al femminile. All'estero c'è molta più cultura, tanto per dire una cosa, che Elisa Longoborghini corre per una formazione che si chiama Wiggle Honda, che è la fondazione di Bradley Wiggins, sì, che ha voluto proprio una squadra femminile. Quindi bisogna fare complimenti a questo grande campione che corre nel Team Sky, che però ha una grande sensibilità, ha una formazione continentale, che vuol dire per ragazzi giovani, per nuove promesse, sì, è uno sul ciclismo femminile. Terremo monitorata la situazione, Pier Augusto. Terremo monitorata la situazione. Siamo solo all'inizio. Grazie a Pier Augusto Stagi. Siamo solo all'inizio. Noi ci fermiamo qui. Di nuovo buona Pasquetta a tutti, Daniele Bonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Giorgio Luca il nostro autore, domani alle 14 tutti convocati. Ce ne posso andare? No, faccio più, già caldo.